24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati a 24 mattino. Io ricordo il numero per i vostri messaggi: 349-238-6666. Ed è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua, ben ritrovata. Buona giornata, buongiorno Alessandro. Allora, oggi parliamo di un tema molto interessante. Fuori onda ho detto, me l'hai rubato, è bello. Tu veramente. L'hai detto a me, sì, specifichiamo. Ti ho detto, me l'hai rubato, veramente molto interessante. Guarda, possiamo facciamolo dire... insieme, rimani qui per tutto il tempo, come se, quindi ti come puoi sempre, soddisfare come anche sempre, tu delle curiosità. Come cioè. Sempre non scappo. La sanità low cost, detta così può sembrare un po' brutale. Sì, ma... perché generalmente quando noi parliamo di tutto ciò che è ambito low cost, associamo questo concetto a qualcosa che ha un servizio che viene ovviamente... remunerato poco, quindi qualcosa di che costa poco, ma poi ci chiediamo ovviamente se la qualità di questo servizio quale sia. Facciamo un esempio su tutti: la compagnia aerea low cost è il primo ambito di intervento di questo concetto. Se noi facciamo un volo con una compagnia low cost, ovviamente dobbiamo rinunciare a tutta una serie di servizi durante il volo, dobbiamo atterrare o partire da aeroporti lontani da quelli centrali delle città. E allora, per la sanità come si può applicare un concetto di questo tipo? Stamattina ce lo spiega Luciano Balbo, che è presidente di Oltre Venture, che è una società che, come dire, ha finanziato la partenza di qualcosa che è, a questo punto, qualcosa di più di un esperimento. Dottor Balbo, buongiorno. Intanto, buongiorno. Allora, noi stiamo parlando di prestazioni sanitarie a tariffe calmierate che vengono eseguite, che vengono fornite da un poliambulatorio con un'equipe medica composta da ben 70 professionisti a Milano. È un nuovo centro medico, si chiama Sant'Agostino, è stato inaugurato lo scorso 2 marzo. Ci faccia subito qualche esempio di quanto costano le prestazioni sanitarie qui, dottor Balbo. Ma direi, subito per dare un'esemplificazione, le visite specialistiche, perché noi operiamo nella fascia più semplice della visita specialistica, quella che sta sopra il medico di base, ma senza entrare nelle attività che riguardano la parte più ospedaliera e complicata, sono normalmente comprese tra i 50 e i 60 euro. 60 euro la prima visita, qui sto parlando di ginecologia, odontoiatria, dermatologia, questo tipo di aree. È un prezzo che è circa il doppio del ticket, e a Milano è la metà o più o meno la metà del prezzo di mercato. Poi facciamo una serie di esami semplici, però per esempio noi abbiamo gli ecografi, tutto questo, e in quest'area tendiamo a fare un intervento a pacchetto, cioè visita più ecografia, con prezzi che rimangono leggermente superiori al ticket ma largamente inferiori al prezzo di mercato. Poi abbiamo un'area che peraltro ci contraddistingue, che è tutta l'area che è poco coperta dal sistema sanitario nazionale, in primis l'odontoiatria, che oggi soprattutto per esempio in Lombardia possono accedere solo fasce a reddito bassissimo o anziani, quindi questa è una prestazione medica normalmente che è nelle mani soltanto del mercato. Noi abbiamo qui dei prezzi compresi tra più o meno il 30 e il 40% al di sotto del prezzo di mercato. Quindi è una struttura interamente privata. Assolutamente. Che però non ha i costi di tutto ciò che potrebbe essere l'ambito privato nella sanità, no? Beh, i costi sono più vicini a quelli del sistema sanitario, certo, nazionale. Ecco. Cioè, diciamo, i prezzi sono leggermente superiori, ma più vicini certamente al sistema sanitario nazionale che alle normali visite private. Ecco, le parcelle quindi sono light, così me le ha descritte nel copione che mi ha preparato la mia collaboratrice Gaia, certo. Romani. Dove si taglia per far quadrare i conti, dottor Balbo? Bella domanda. Allora, noi utilizziamo dei medici che in generale operano nel sistema sanitario nazionale. Sono degli specialisti abbastanza giovani, ma diciamo con esperienza, e abbiamo un senior che in generale ci ha aiutato a strutturare l'offerta ed è l'unica persona che ha normalmente lavorato pro bono sul progetto, perché il progetto ha una missione sociale. Noi paghiamo i medici circa come il sistema sanitario nazionale, quindi questa è la regola, e facciamo pochi margini. L'obiettivo del centro è quello veramente di offrire un servizio abbordabile e quindi di fare volumi importanti per poter avere un margine totale che ci permetta di coprire i costi fissi. facendo pochi margini. Questa è un po', sembra una regola semplice, però è così, anche perché la situazione dell'offerta è questa: da un lato c'è il sistema sanitario nazionale, che appunto ha tutta una serie di vantaggi, ma in questa fascia ha dei problemi per i grandi volumi, le liste d'attesa, la poca durata delle visite. Le visite private in generale sono fatte da piccoli gruppi di persone o da singoli, e che quindi prezzano il loro margine, il loro prezzo in modo referenziale a se stesso: a quale prezzo farei la prestazione. Se invece si fa un'attività organizzata che ha dei buoni volumi, che però funziona bene, si possono fare dei prezzi diversi, ovviamente avendo come sempre pagando i medici come il sistema sanitario. Ecco, nazionale. Infatti, come li avete reclutati i medici, dottor Balbo? Qui avete 70 professionisti al vostro servizio, reclutati sulla piazza di Milano, e tra l'altro sono fior di professionisti. Certo, come vi dicevo, questa idea che abbiamo avuto è potuto realizzarsi grazie alla collaborazione di alcuni importanti medici nelle varie specialità. Operano con noi, ripeto, non prestando la visita, ma avendo costruito l'offerta, dei primari o dei responsabili di specialità noti a Milano, che hanno un po' sposato la filosofia del progetto. Uno, un po' per l'obiettivo della missione sociale, e anche di costruire dentro il centro un sistema organizzativo che talvolta è difficile costruire nel sistema sanitario nazionale. L'altro, credo, ma anche in modo esplicito, per dare ai loro più giovani collaboratori specialisti una alternativa sia professionale sia di integrazione di reddito, tenendo conto che oggi nella sanità italiana si è spesso precari fino a 40 anni, proprio perché il sistema tende a non assumere più, quindi è un'attività professionale in un ambiente qualificato che aggiunge un po' di remunerazione all'attività che fanno all'interno del settore pubblico. Ecco, noi quando abbiamo scoperto dell'esistenza di questa iniziativa su Milano abbiamo subito voluto indagare per capire anche se è possibile replicarla altrove, dottor Balbo, dove le liste d'attesa per un esame in una struttura pubblica sono interminabili e l'accesso in una privata a volte è impensabile per stipendi modesti, come giustamente lei rilevava prima. Avete già in mente di trasferire questo modello in altre città italiane? Questo è un progetto, non è un progetto, è un, come dire, un ambulatorio che è già partito con la sua attività il 2 marzo, quindi forse anche presto per fare bilanci, però da quello che ha potuto constatare, certo, fino a questo momento. Ma direi appunto, siamo partiti bene, nel senso che abbiamo volumi di visite superiori all'attesa, ma certamente ci vorrà ancora un po' di tempo per trarre i primi risultati. Tuttavia abbiamo già qualche altra piccola esperienza. A Bergamo, insieme a due cooperative sociali e un gruppo di medici, abbiamo aperto un laboratorio odontoiatrico e stiamo finanziando o cofinanziando un'iniziativa che sta partendo vicino a Rho. In generale il nostro obiettivo è replicarlo. L'area in cui probabilmente è più facile a breve la replicabilità e l'odontoiatria. È un'area particolare perché appunto il sistema pubblico offre molto poco. Una recente statistica dell'Istat diceva che solo il 15% degli italiani va nel settore pubblico. È un mercato abbastanza selvaggio, c'è di tutto in termini di prezzi e di qualità, e quindi se riusciamo a replicare offrendo qualcosa di buona qualità, che sia credibile, che trasmetta fiducia all'utente, io credo che questa sia l'area dove stiamo pensando più rapidamente di replicare il nostro tipologia di intervento. Allora avremo modo di risentirci, dottor Balbo, per adesso la ringrazio. 10 secondi di tempo, Alessandro Milan non le voleva fare questa domanda, gliela faccio io per lui. No, chiedeva se l'Ordine dei Medici ha avuto qualche cosa da ridire su questa iniziativa. No, non abbiamo avuto particolari riscontri. Come sapete adesso le tariffe sono liberalizzate. Devo dire che abbiamo poi avuto opinioni favorevoli e contrarie sentendo vari medici, però ci ha certamente aiutato il fatto che questa sponsorship di questi medici senior che ci hanno aiutato nella progettazione, quindi ci ha fatto apparire al mondo medico non degli outsider ma degli insider che stanno lavorando anche col sistema medico. Grazie molto e buon lavoro, Alessandro. Grazie, buongiorno. Buona giornata. Eccoci qua, e allora? A Salvadanaio rapidamente ritorniamo sulle iniziative di solidarietà per l'Abruzzo e sulla maxi iniziativa che è stata annunciata ieri dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, sulla sospensione dei mutui, dei prestiti, quindi tutto il sostegno finanziario possibile alle popolazioni terremotate. Sono le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Per la ricostruzione dell'Abruzzo servono 12 miliardi di euro e questa è la prima stima fatta dal ministro agli interni Maroni. Intanto continuano le scosse nella provincia dell'Aquila e il procuratore Rossini, che segue l'inchiesta, dice attenzione al rischio infiltrazioni della mafia nella ricostruzione. La Lega dice no all'Election Day, ovvero l'accoppamento di referendum ed elezioni europee nella stessa data, il 6-7 giugno, a ribadire la linea al ministro Calderoli al termine del vertice del Carroccio ieri. L'unica proposta accettata dalla Lega è che si voti per il referendum il 21, giorno dei ballottaggi delle europee, ipotesi osteggiata dal comitato dei promotori del referendum. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso gli arresti domiciliari a Cinzia Banelli, prima pentita delle nuove Brigate Rosse, condannata per complicità nell'omicidio di Massimo D'Antona e Marco Biagi. La Banelli verrà trasferita in una località segreta con una nuova identità, un sussidio da parte dello Stato come collaboratrice di giustizia. E vi ricordo che ne parleremo di questo tema alle 8:45. Infine il calcio, Chelsea-Barcellona è la prima semifinale di Champions League. Ieri il ritorno dei quarti di finale, le partite sono finite 1-1 tra Bayern Monaco e Barcellona e Chelsea-Liverpool 4-4. Stasera il ritorno degli altri due quarti di finale, il Porto-Manchester United si parte dal 2-2 dell'andata e Arsenal-Villarreal si parte dall'1-1. Era l'ultima notizia, allora alle 8:33 minuti. 349-238-6666 per i vostri messaggi. C'è chi in maniera poetica, se si vuole, ma sbagliata, evoca Sandokan, chi parla di Johnny Depp e i suoi film sui pirati. Qui si parla di una cosa ben più seria, ben più grave e legata alla criminalità. C'è un posto, un luogo del mondo, al di là del canale di Suez, nel Golfo di Aden, al largo delle coste della Somalia soprattutto, dove purtroppo colpiscono quotidianamente, soprattutto nell'ultimo periodo, i pirati. Ci sono diversi italiani che sono anche, 10 per la precisione, che sono anche sequestrati da qualche giorno. Sono 77 gli attacchi alle navi che incrociano quei mari nell'ultimo periodo. Sono 300 le persone che i pirati tengono in ostaggio in questo momento. Insomma, l'emergenza c'è. Io saluto il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica. Senatore, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, innanzitutto gli italiani, le ultime notizie della Farnesina, ci sono dei contatti? Ma noi siamo, voglio dire, come ormai drammaticamente abituati a questo discorso, siamo in stretto coordinamento con tutte le unità dello Stato che operano in questo settore. Teniamo conto che da sempre per la Farnesina e per il governo italiano la vita e il salvataggio degli ostaggi è un bene primario e quindi tutto si svolge in funzione di questo. Ovviamente la procedura o le procedure sono in corso. Siamo in contatto diretto con i familiari delle vittime che sono state rapite, quindi sono, come dire, in una situazione di pericolo di vita, ma che speriamo stanno bene, non sappiamo se stanno bene, speriamo che tutto svolga per il meglio, le attività sono iniziate, la situazione però in Somalia, come lei l'ha descritta, è particolarmente difficile. Sì, uno Stato che non è uno Stato, non c'è un'autorità centrale da anni. Le chiedo però, ovviamente... Soprattutto vorrei ricordare a lei, gli ascoltatori, che questa attività piratesca che adesso ha assunto un livello industriale, chiamiamolo così, sono 77 le navi sequestrate a partire dal 1 gennaio, quindi in 3 mesi e mezzo, 4 mesi. Ma che l'attività della pirateria somala è, voglio dire, nota dagli anni 10 e 20, cioè una attività, come dire, quasi consuetudinaria. Prima si svolgeva molto sulla sponda, sulla costa del sud-est, cioè quella che guarda verso l'Oceano Indiano più direttamente, e infatti il porto di Mombasa in Kenya era un porto estremamente pericoloso perché spesso per arrivare si incappava nei pirati somali, ma incappavano piccole navi da 10.000 tonnellate, 5.000. Oggi, soprattutto nella zona di Aden, quindi nella zona di imbocco del canale di Suez, ormai gli attacchi arrivano a tutte le navi, ricordiamo la petroliera saudita, che superava le 100.000 tonnellate di stazza. Sì, ieri sono state prese anche il portagranaglie greco Irene, una nave da 35.000 tonnellate, 22 filippini a bordo e il cargo da 5.000 tonnellate Seahorse, battente bandiera del Togo. Le chiedo, sottosegretario, per quanto ci può dire, ovviamente ci sono trattative, immagino, insomma, ci si muove e non bisogna fare tanta pubblicità, però ci dica quello che si può dire, cioè c'è un contatto diretto con le persone, si sa chi li ha presi, si sa chi li ha in mano, si sa, insomma, si sa qualcosa della sorte dei nostri. Si sa dov'è, e questo già è importante. Si sa dov'è la nostra nave maestrale, ha sotto controllo, diciamo, la nave. Beh, dopodiché i contatti avvengono nella maniera che deve avvenire in una realtà clanica, quindi ulteriormente difficile, però tutto è stato fatto perché i contatti siano creati e quindi si avvii una trattativa sostanzialmente. Certo, le chiedo, visto che c'è anche con noi Massimo Alberizzi, inviato del Corriere della Sera, al quale tra poco do la parola perché si trova tra l'altro in Kenya. Oggi lei non ha potuto vedere le immagini dei giornali, ma sulla stampa Ignazio Messina, che è un armatore importante, guida una delle più importanti flotte che incrociano proprio quei mari, armatore genovese, intervista alla stampa, pagina 3, basta, bisogna sparare a vista, il problema della pirateria si può risolvere soltanto con la forza, quello che hanno fatto gli americani per esempio un paio di giorni fa con un blitz per liberare un loro prigioniero. È ipotizzabile, senatore, un'ipotesi di forza? Guardi, questo mi pare, al di là della dichiarazione abbastanza pesante, che si sia arrivati a un punto nel quale non si può più continuare come prima, questo mi pare abbastanza certo. Noi abbiamo una missione che si chiama Atalanta dell'Unione Europea, di cui fa parte maestrale, e ovviamente prima occorre un maggior coordinamento tra tutte le navi che incrociano, perché finora la presenza di navi da guerra non ha, come dire, ridotto né modificato il piano d'azione dei pirati, quindi evidentemente è una funzione che deve avere nuovi caveat, cioè nuovi ordini di intervento, nuove possibilità di manovra. Il problema è anche sulla terra, che ovviamente le navi vengono ancorate in rada, i prigionieri sono tenuti a terra in case costruite apposta per i prigionieri, gira molto denaro, quindi ci sono anche come dire, canali finanziari che dovrebbero essere a questo punto bloccati, credo che si sappia perfettamente, anche lo hanno dichiarato gli stessi pirati, da dove, voglio dire, dove comprano i barchini e dove comprano i mezzi per gli attacchi alle navi. È chiaro che la comunità internazionale non può assistere in maniera così passiva di fronte a questo modo di agire. Evidentemente una decisione di maggior coordinamento delle navi, di intervento militare delle navi, cozza anche contro, forse l'armatore non ha detto fino in fondo, cioè queste navi sono debolissime sul mare, perché una grande petroliera, certo, sul mare, quando viene attaccata trasporta alcune migliaia di tonnellate di greggio, cioè voglio dire è una bomba che naviga qualora fosse attaccata o qualora fosse difesa. Non a caso gli stessi armatori finora hanno respinto l'idea di avere pattuglie militari a bordo, perché la difesa sul mare è praticamente impossibile, quindi occorre fare una azione di prevenzione sulle navi madri che trasportano i barchini, sui porti dove vengono ancorate le navi. Questo però presuppone un riaprire un dossier Somalia anche politico. Sì, lei dice qualcosa, cioè si deve, non si può più tollerare, però da qui al blitz, voglio dire, anche una questione di cultura, non so se un paese come l'Italia accetterebbe. Però mi lasci andare per un attimo in Kenya, io voglio salutare Massimo Alberizzi, è caduta la linea, ma lo recuperiamo tra un attimo. Dicevamo, sottosegretario, è la possibilità di un attacco, di un blitz, voglio dire, è una qualcosa che secondo lei non è più americano e meno italiano, diciamola proprio così. Diciamo, forse rientra anche francese, perché per due volte i francesi hanno fatto blitz, la prima volta è andato molto bene, la seconda volta purtroppo c'è stato un morto, vittima fra le persone che erano state sequestrate. È ovvio che io torno a dire, un'azione qualitativamente diversa. Io penso anche sempre alla politica, non si può lasciare la Somalia nelle condizioni in cui è stata lasciata 14 anni. Esiste un governo transitorio, va appoggiato pesantemente, l'Unione Africana deve mandare i suoi militari come era negli accordi per mantenere l'ordine. Tra l'altro vorrei ricordare che la zona nella quale avviene il sequestro è una zona, penso i giornali l'hanno definita il Puntland, i vecchi italiani forse si ricordano la Migiurtina, cioè laddove nacque proprio il colonialismo italiano, che è una zona che storicamente non è mai stata, e questo anche per dire che forse è più un motivo almeno al momento di criminalità organizzata che non politico, è una zona dove non c'è mai stato radicalismo islamico radicato e profondo, è a nord di Mogadiscio, confina col Somaliland, addirittura pare che alcuni porti di appoggio siano al confine col Somaliland, sì, che è sempre stato ritenuto fra tutte le aree della Somalia quello più, diciamo, tranquillo, quello più ordinato. Allora, no? Visto che abbiamo recuperato la linea, Massimo Alberizzi, inviato del Corriere della Sera, buongiorno Massimo, in Kenya, no, ma buongiorno, profondo buongiorno. Conoscitore anche della Somalia, allora, ne sai qualcosa di più nel senso sulla sorte degli italiani? Ci ha detto il sottosegretario Mantica, si sa dove è la nave, però i contatti avvengono nei canali che devono avvenire, dici qualcosa? Ma dunque, prima di tutto vorrei salutare il senatore Mantica, che stimo molto perché lui conosce molto molto bene la regione, conosce un amante dell'Africa, quindi col quale ci si può sempre confrontare con idee aperte e comprensibili, ci si comprende sempre. Ma dunque, informazioni sono sempre un po' vaghe. Io ho cercato di parlare con i pirati che dovrebbero aver preso la nave, perché poi ovviamente al telefono uno si può confondere e sostenere cose che non sono vere. È abbastanza complicato, ci sono un paio di mediatori che sono andati a Bosaso per parlare col governo del Puntland, però quella è una zona che non è controllata né dal Somaliland né dal Puntland, in realtà è una cabila che la controlla, i Wasangheli, i quali hanno i capi clan naturalmente, i capi fazione, i capi miliziani anche. Attenzione, perché in Somalia non funziona più il vecchio sistema clanico di controllo sociale, quindi anche i vecchi elders, i vecchi anziani che una volta avevano un'influenza forte sui giovani, ora ne hanno molto molto meno, perché i giovani sono attratti dalle migliaia di dollari dei riscatti che i loro colleghi che operano sulla parte, diciamo, orientale della Somalia, qui siamo invece nella parte nord, proprio di fronte ad Aden, allo Yemen, sul Golfo di Aden, ecco gli enormi ricavi che hanno avuto i loro colleghi che operano dall'altra parte. Questa come prima osservazione. È vero che il governo del Puntland in qualche modo si è sempre spesso contro la pirateria, tant'è vero che hanno fatto un paio di azioni, un paio di blitz in settembre e ottobre, catturando anche alcuni pirati. È vero però che anche parte di questo governo è coinvolto nei sequestri delle navi. Sì, insomma, la situazione confusa. Massimo, ti chiedo, per i tempi, c'è una ipotesi, perché si sa che queste trattative possono essere veloci, possono essere rapide, ma possono essere anche lente. Guarda, come credo Alfredo, sono d'accordo, in Africa è meglio mai fare previsioni, perché i grandi esperti d'Africa, come dovremmo essere noi, in realtà le sbagliano sempre, quindi è molto difficile. Però io volevo, scusami, un'osservazione sull'uso della forza. Ma qui il problema è vero che può esserci la pirateria, si batte con l'uso della forza. Primo, bisogna usare la forza se vogliamo a terra, nelle basi dei pirati, ma la forza va usata contro chi finanzia. Quindi quando nei summit dell'Unione Europea si parla di mettere sotto controllo i paradisi fiscali, è lì che si deve combattere. Cioè, su queste cose devo dire che l'Italia su questo si è impegnata, ma per esempio io ricordo il vertice di Nizza di qualche anno fa, dove Tony Blair era contrarissimo a mettere sotto controllo i paradisi fiscali. Attenzione, i riscatti vengono sì paracadutati sulle navi, ma parte vengono pagati a Londra e in Svizzera. Ecco, e allora è lì che bisogna colpire. Chi sono i mandanti di questa gente? Questi non sono dei brubru incolti. Mi diceva che la mail con cui hanno rivendicato il sequestro della Buccaneer è una mail scritta in un inglese perfetto di qualcuno che ha studiato a Oxford. gliel'avranno sicuramente. Sì, questo a dire che ci sono delle complicità dei mandanti, appunto, che sono quelli da colpire. Io mi devo fermare qui ringraziando Massimo Alberizzi, inviato del Corriere della Sera, il senatore Alfredo Mantica, che è sottosegretario agli esteri. Speriamo ovviamente che la sorte di questi italiani si risolva per il meglio al più presto, non solo loro, insomma, ce ne sono 300 di ostaggi in questo momento di varie navi prese dai pirati al largo della Somalia, nel Golfo di Aden. Le 8:48 minuti, l'ultima parte di 24 mattino. Cinzia Banelli, dunque, l'abbiamo sentito anche in GR24, l'ex compagna So, come era chiamata in codice. Lascerà il carcere di massima sicurezza di Sollicciano, ha due condanne in parte scontate, l'omicidio di Massimo D'Antona a 12 anni, l'omicidio Marco Biagi 10 anni e 5 mesi. È pentita e per questo il Tribunale di Sorveglianza le ha concesso gli arresti domiciliari. Non solo, essendo pentita, dunque collaboratrice di giustizia, d'ora in poi avrà una nuova identità, vivrà in una località segreta, percepirà un sussidio dallo Stato, come tutti i collaboratori di giustizia. Insomma, si riapre il tema sempre molto importante del rapporto tra le vittime e i carnefici, se mi si permette questa espressione. Io tra l'altro voglio salutare l'onorevole Sabina Rossa. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Oggi è deputato del PD, ma insomma sappiamo che è figlia di Guido, sindacalista, operaio ucciso dalle Brigate Rosse nel 1979. Lei ha fatto un percorso diverso. Prima però le voglio far ascoltare agli ascoltatori quello che ci ha detto l'onorevole Olga D'Antona, la vedova di Massimo D'Antona, anche lei oggi deputato. Poche parole, nessun commento invece dalla famiglia Marco Biagi. Poche parole misurate ma molto precise dall'onorevole D'Antona, che vogliamo ascoltare. La mia opinione personale è che Cinzia Banelli, ho avuto occasione di dirlo in altre volte, ha avuto un comportamento ambiguo, né mi risulta che la collaborazione di Cinzia Banelli abbia portato all'arresto di qualcuno. C'è amarezza, ecco, questo sì. C'è amarezza, io comunque rispetto sempre le scelte della magistratura, anche perché i magistrati applicano le leggi, insomma, c'era già una commissione ministeriale che aveva espresso parere favorevole. Cinzia Banelli ha dato la sua collaborazione, che comunque ha valorato le tesi degli inquirenti, questo è. Vorrei ricordare giornalmente queste cose al presidente francese Sarkozy, che non ha dato l'estradizione a Marina Petrelli ritenendo che per motivi umanitari non fosse il caso di trasferirla in Italia. Mi riferisco al presidente Lula, che non dà l'estradizione a Battisti, come se nelle carceri italiane si applicasse la tortura. Secondo lei non c'è comunque una mancanza di rispetto nei confronti anche delle vittime del terrorismo, oppure no? Le vittime per la legge italiana non esistono. Quando si dà il diritto privato, le vittime vengono private addirittura, no, ad assistere ad un dibattimento, no? Non è che si chiede alle vittime se sono d'accordo. Nel processo italiano le vittime non esistono, non hanno titolo, non hanno diritto. Sono quasi di disturbo, perché se poi vengono intervistati dalla stampa, insomma, possono dire cose sgradevoli. Allora, questo ci ha detto Olga D'Antona. Onorevole Rossa, io non credo, se vuole commentare, ma insomma ogni vicenda ha un percorso diverso, sono storie certo. Diverse. L'amarezza sicuramente di Olga D'Antona, anche quel riferimento a Sarkozy, a Lula. Forse la cosa che accomuna, non lo so se vuole commentare questo, la questione delle vittime. Le vittime che, soprattutto nel rito abbreviato, non possono assistere al dibattimento. Le vittime che non contano, le vittime che disturbano. Anche lei percepisce questa cosa? Ma sì, alle vittime insomma viene chiesto e non chiesto, contano e non contano, a volte anche in maniera un po' discrezionale, perché le vittime oggi sappiamo vengono ancora una volta chiamate in causa per concedere la norma prevista all'articolo 176 del codice penale, quindi per concedere la liberazione condizionale, viene richiesto questo sicuro ravvedimento e comprovato attraverso appunto dei rapporti epistolari che vengono chiesti al colpevole verso le vittime, le proprie vittime. E qui la vittima viene chiamata in causa, diciamo, in modo secondo me assolutamente improprio, perché non può essere la vittima colei che può essere l'ago della bilancia nella concessione o meno della liberazione condizionale. Questo è un fatto che mi ha visto coinvolta in prima persona, come penso sì. molti e come molti sanno. Io vorrei raccontare appunto percorsi diversi. Vincenzo Guagliardo è la persona che sparò a suo padre, e, quanto ha scontato? È in regime di semilibertà? Allora, io non apprimetto, voglio dire, non voglio fare qui l'avvocato difensore di Vincenzo Guagliardo, certo. Però Vincenzo Guagliardo è stato arrestato nel 1980 ed è a tutt'oggi in carcere, anche se in regime di semilibertà. Lei si è espressa pubblicamente, voglio dire, perché Guagliardo ha chiesto poi che, di poter uscire definitivamente dal carcere. Tra l'altro il pubblico ministero credo fosse d'accordo. In questo caso vedete come le storie sono diverse, ogni storia va soppesata nella sua singolo iter. In questo caso il tribunale del riesame ha respinto questa richiesta, e lei pubblicamente ha dichiarato, credo anche un paio di giorni fa in un articolo di Giovanni Biancone al Corriere della Sera, è una ingiustizia, è una vera ingiustizia. Perché? Ma io ritengo di dovermi battere in prima persona per tutte le ingiustizie. Anche questo ritengo sia un'ingiustizia, perché intanto perché questo incontro, questo ravvedimento comprovato attraverso rapporti epistolari o meno, insomma, io l'incontro con questa persona l'ho avuto, sono andata a parlare col presidente del tribunale di sorveglianza, ho detto alla presidente che credo fermamente che quest'uomo a distanza di quasi 30 anni sia un uomo diverso, che così me l'ho incontrato, e nonostante, come dire, questa testimonianza gli è stata vista respingere per la seconda volta la richiesta di liberazione condizionale, e quindi la mia reazione è stata questa, di dichiarare che è un'ingiustizia, nel senso che abbiamo oggi una situazione molto variegata, molto diversa. Abbiamo coloro che hanno beneficiato delle leggi speciali, che sono sicuramente leggi che hanno avuto un senso, che hanno contribuito negli anni dell'emergenza a debellare il terrorismo, che anche oggi probabilmente hanno una loro legittimazione, hanno un senso importante, però le leggi speciali hanno creato anche condizioni tali che chi ne ha beneficiato è uscito presto dal carcere, non ne ha fatto del tutto, mentre altri rischiano di non uscire più. Senta, sa cosa della vicenda invece di Cinzia Banelli? A me personalmente colpisce, anche da un po' fastidio. È chiaro, una collaboratrice di giustizia, come tutti i collaboratori, deve essere trattata allo stesso modo. La località protetta, l'identità segreta, il sussidio da parte dello Stato, quello Stato che lei ha combattuto, essendo stata condannata per l'uccisione di due giuslavoristi. Ma io voglio dire, se questo sussidio le viene erogato e lei è beneficiaria di ciò, credo che anche questo, come diceva Olga D'Antona, è il risultato di una norma, dell'applicazione di una norma, certo. E sulla quale, come dire, anch'io rispetto sia dei giudici che delle leggi, quindi questo è previsto come una per legge, non vedo che cosa si possa commentare, insomma. Sì, certo, non tutto quello che, ma è una mia opinione personale, insomma, è una cosa forse non da combattere, ma di fastidio, ecco, solo questo, però ma capisco. Secondo me bisogna anche un po' uscire da quella logica vittimistica e cercare di vedere anche le cose in modo un pochino più obiettivo per quelle che sono. Va bene, io la ringrazio molto Sabina Rossa di essere stata con noi. Onorevole Sabina Rossa, voglio ricordare, figlia di Guido Rossa. Abbiamo sentito anche le parole di Olga D'Antona, le parole sicuramente di amarezza, ma di profondo rispetto, così come ho colto in Sabina Rossa, di profondo rispetto per le decisioni autonome della magistratura. Ci fermiamo qui con 24 Mattino, grazie a Laura Marchesi in redazione e Carmelo Lauricella in regia. Tra poco Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante, il tema è il terremoto, anche le annesse polemiche che ci sono state. Noi ci ritroviamo con 24 Mattino a domani, ricordo che potete scriverci 24 Mattino @radio24.it.